Vi presentiamo ora Eclettica. Le trasmissioni proseguono ora a diffusione regionale. Spettacolo di cartoni animati. Thank you. si è aperta con un lunghissimo brano da parte dei Fuck Buttons, intitolato Sweet Love for Planet Earth, la seconda parte di Eclettica, dopo che la prima si era chiusa con una doppietta tutta italiana, Canadians prima e Nano poi. È Giulio Capperdoni ad accompagnarvi fino alle 20, come fa tutte le sere, sulle frequenze terrestri oppure sullo streaming o sul satellite. Sono queste le tre modalità di ascolto della diretta di Rock FM. E vi ricordo che esiste invece anche la differita, ovvero sia il podcasting, tutti i dettagli su myspace.com/eclettico oppure su www.radiorockfm.com. Proseguiamo con i Frightened Rabbit, però non con Square Nine, canzone che tante volte ci siamo ascoltati e, se non vado errato, anche settimana scorsa. Infatti nel frattempo è arrivato quello che è il nuovo album per la band di Glasgow, The Midnight Organ Fight. E io da questo vado subito a pescare The Modern Leper. A cripple walks amongst you all, you tired human beings. Got all the things a cripple has, not two working arms and legs. And vital parts fall from his system and dissolve in Scottish rain. Vitally, he doesn't miss him, he's too fucked up to care. Is that you? Dang eye, in your dadgum eye. Ugh. Yeah, keep shooting. Nothing's gonna happen. Now you know my shame. Jedediah's impotent rage. His guns don't fire. Take me away. Mm-hmm.

Dietro Camphor si nasconde Max Avery Lichtenstein, che fino ad ora aveva scritto colonne sonore prevalentemente per film indipendenti. Ora ha deciso invece di formare un gruppo, forse perché ha voglia di suonare sulle assi di un palcoscenico. Un gruppo che lo ha aiutato sia a incidere il disco, che lo aiuterà anche a portare in giro la sua musica. Un gruppo abbastanza variabile nella sua composizione, ma di cui fanno parte membri di altre band come Mercury Rev, come la band che accompagna Beirut, come i Bright Eyes, oppure anche accompagnatori di Soul Seppi, tutti nomi che hanno forti legami con Eclettica. C'è un disco in uscita nel prossimo mese di marzo, per la precisione per la Friendly Fire Recordings, intitolato Drawn to Dust, dal quale io vado ad estrarre The Sweetest Tooth. Eclettica, stagione numero 14, settimana numero 13, volume numero 2. Indice: Evangelicals, Tennis Coats, Sunny Day Sets Fire, Canadians, Nano,